La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buongiorno e ben ritrovati alla prima volta. Prima di entrare nel vivo di questa nuova puntata vi rinnovo i nostri indirizzi. L'email è la prima volta at radio24.it, ci trovate su Facebook alla pagina radio24-la prima volta, potete riascoltarci in podcast. Comunque tutti questi riferimenti li trovate andando sulla pagina della trasmissione all'interno del sito di Radio 24. E veniamo invece alla puntata di oggi, ve lo avevamo già anticipato la scorsa domenica. Oggi il nostro ospite è Umberto Veronesi, che è collegato con noi. Buongiorno professore, una storia alla sua piena di colpi di scena, di eventi arrivati quasi inaspettatamente e di scelte consapevoli. Ragazzino discolo, figlio del popolo, partigiano, studente di medicina. Umberto nasce a Milano, in quello che oggi chiameremo Interland, e per andare a scuola cammina per chilometri, come accade oggi ai ragazzini africani. Tutto sembra lontanissimo, quasi dimenticato in questa storia. Professore, lei invece i ricordi li ha ancora vivi e confermano in qualche modo che nella vita davvero tutto è possibile. Ad esempio, se le chiedo di ricordarsi della sua infanzia, lei che cosa sognava di diventare? Si immaginava che sarebbe diventato un medico? No, da bambino non pensavo proprio nemmeno di riuscire a fare gli studi universitari. Sono nato in una famiglia povera, nella pianura lombarda, negli anni 20, nel 1925, ai tempi del delitto Matteotti, per intenderci. Quindi allora il problema era sopravvivere, riuscire a mangiare, i tempi erano difficili e si andava già a scuola e con difficoltà. Ho fatto le elementari, le scuole medie erano un disastro, eravamo in un regime fascista molto severo e io mi ribellavo, quindi sono bocciato due volte alle scuole medie, ma poi ho fatto la guerra, sono stato ferito, ho fatto il partigiano. Ecco, dopo la guerra è cambiato tutto nel mio pensiero, mi sono reso conto che la cultura, la conoscenza, l'informazione, il sapere è fondamentale, mi sono iscritto all'università. Quindi è stata la guerra, la brutalità proprio della guerra che l'ha in qualche modo fatta maturare e spinta verso questo percorso? Esattamente, e ho deciso di fare il medico perché volevo conoscere attraverso gli studi psicologici e psichiatrici le origini del male. Ero rimasto scosso dalla crudeltà, dalla violenza, dalla ferocia degli atti di guerra e durante la lotta partigiana, puoi immaginare, per cui non riuscivo a capire dove potesse essere nascosto nel nostro pensiero questo, diciamo, punto di partenza per questa, tutta questa violenza. E quindi pensavo di fare lo psichiatra, ma al quarto anno di medicina, per un corso di esercitazioni necessarie, mi sono imbattuto in un male ancora peggiore, nel cancro. E all'Istituto Nazionale dei Tumori, quando sono entrato, ho avuto una folgorazione, vedendo disperazione, dolore, morte, rassegnazione, fatalismo. Ho detto: no, non posso non dedicare la mia vita a questa malattia così feroce e così poco, diciamo, che richiama così poca attenzione dalla classe medica. E quindi mi sono dedicato a quello. E quanti anni aveva quando è successa questa, come l'ha definita lei, folgorazione? E questa folgorazione mi è arrivata, che ero quarto anno, quinto anno di medicina, quindi eravamo negli anni, mi sono arrivato negli anni 50, 48, 49. Senta, lei ha sempre raccontato che nella sua proprio scelta, anche quello che ci ha raccontato è un po' la fotografia di un uomo molto generoso, no? E in questa sua formazione di aiuto verso l'altro, di andare incontro all'altro, un ruolo fondamentale lo ha avuto sua mamma. Che tipo di madre è stata, che tipo di famiglia è stata la sua, non solo dal punto di vista della ricchezza o della povertà, ma proprio dal punto di vista dell'insegnamento esistenziale? È stato un insegnamento importante. Io vivevo in una cascina. Nella cascina eravamo in tanti, la nostra famiglia, poi gli zii, altri parenti, anche ospiti, una mia zia vedova, insomma eravamo in tanti e in questa grande comunità si cresceva bene in totale povertà, ma con il senso dell'aiuto reciproco. E i pazienti che stavano male, si ammalavano, oppure morivano, erano trattati in una maniera umanissima. Direi tutta questa vicenda della fase terminale della vita era modulata da una grande amorevolezza, da una grande affettività, e questo ci ha insegnato molto. Poi, vivendo in quel mondo, si vedeva la gente vivere, si vedevano le malattie, si vedeva la gente morire, ed era una grande, scuola di vita. Per cui sono cresciuto proprio nella convinzione che bisogna partecipare collettivamente per costruire qualcosa, e quindi bisogna, come diceva lei, rapportarsi con gli altri in maniera positiva. Lei anche nella vita personale è stato un uomo capace di portarla, insomma, a portarlo questo messaggio di vita, perché con sua moglie ha avuto 7 figli. Ecco, quanto ha influito l'essere padre di una famiglia così numerosa nella sua scelta poi professionale di dedicarsi così profondamente alla cura del cancro? Ma io ho cominciato a occuparmi di tumori molto prima di sposarmi. Io mi sono sposato piuttosto anziano, 35 anni, e quindi ero già abbastanza in una fase di approfondimento della ricerca contro i tumori. Però avere tanti figli ti stimola, ti impegna sul piano umano, sul piano professionale, sul piano sociale. Capisci che devi costruire un mondo che poi il nostro DNA ci spinge a quello, di procreare, ma di creare un mondo adatto alla vita del prodotto della procreazione. E quindi mi sono molto, come si può dire, motivato da questa grande famiglia che ha dato 7 figli, adesso abbiamo 16 nipoti, ed è una grande forza per i genitori, e adesso nonni anche, ma anche per loro stessi. 7 ragazzi crescono bene insieme, imparano rapidamente i limiti della propria libertà e il rispetto delle libertà altrui, e imparano a essere solidali e a lavorare insieme, e i più grandi aiutare i più piccoli. È un mondo diverso, la famiglia è grande, non la vediamo più, ormai sono tutte microfamiglie quelle che nel mondo di oggi, e questo è un peccato. È impossibile pensare di tornare alle famiglie patriarcali per ragioni proprio di evoluzioni sociali, ma certamente perdiamo molto. Professore, ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma torniamo con lei. La domanda che le voglio fare è legata alla diagnosi precoce e anche alla possibilità di arrivare davvero a sconfiggere il cancro. La prima volta. Ben ritrovati alla prima volta, e dunque il nostro ospite questa settimana è Umberto Veronesi, medico oncologo, direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia, autore del libro Il mestiere di uomo, un libro intenso in cui lei, dottore, spiega quanto ci ha raccontato anche poco fa, e cioè come è diventato quello che è oggi. Una strada fatta di vittorie, ma anche di sconfitte, di grandi dolori, che non hanno però intaccato il suo ottimismo e la sua voglia di combattere, e soprattutto combattere il cancro. Lei lo ripete da molto, che sarà proprio la prevenzione l'arma più efficace per sconfiggere i tumori. È una cosa che crede davvero fortemente. Sì, io sono non solo speranzoso, ma convinto che riusciremo a curare i tumori. E questo obiettivo è il primo obiettivo, cioè curare quelli che si ammalano. ma il vero obiettivo finale è quello di prevenire la malattia, perché se io curo uno, ma dietro la porta ce n'è già altri tre ammalati che devono essere curati, beh, non è una soluzione finale, è una forma, diciamo, palliativa di tutta la vicenda. E quindi adesso, il prossimo decennio, il prossimo ventennio, bisognerà dedicarlo a prevenire la malattia. E per fare questo vuol dire studiare molto per scoprire le cause. Di alcune le conosciamo, ma di altre non le conosciamo. Sappiamo che l'amianto fa venire i tumori della pleura, o che il fumo di sigarette fa i tumori polmonari. Quindi qui la prevenzione è già in una direzione ben definita, ma per altri tumori non sappiamo ancora. Molti tumori sono da virus, ma dobbiamo ancora definire bene quali, come e che tipo di vaccini poter trovare. Molti tumori sono dovuti a una cattiva alimentazione, e qui stiamo studiando la maniera per suggerire un'alimentazione sempre più protettiva, perché fortuna in natura ci sono molte, diciamo, sostanze nocive, ma ci sono anche delle molecole, soprattutto nei vegetali, che proteggono le cellule dalla trasformazione tumorale. Lei è vegetariano? Quindi, io sono vegetariano, sì. Sono vegetariano perché amo gli animali. Sono cresciuto in una cascina, quindi vivevo con gli animali, vitelli, vitellini, pecore. E quindi non è una scelta anche in qualche modo relativa? Salutistica, a quello? No, è una scelta medica, è una scelta etica. No, mi scusi, l'ho interrotta perché mi è venuto in mente questo, però stava dicendo appunto che oggi come oggi la ricerca deve andare proprio incontro a questa capacità di prevedere o prevenire. Prevenire, sì. Questo è quello che noi pensiamo come grande strategia di lotta alle malattie. Bisogna fare di tutto per creare delle condizioni di vita e di autoprotezione della salute nella popolazione, che portino a una riduzione della frequenza delle malattie. Poi quando la malattia avviene, ovviamente faremo di tutto per curarla bene, questo lo sappiamo già, l'ho già detto, ma è importante per il futuro cercare di prevenire, cioè la prevenzione diventa l'obiettivo primario. Senta, professore, le volevo chiedere, proprio nel suo percorso di medico, ci sono state delle volte in cui insomma è tornato a casa sconfortato da quello che ha visto, cioè delle volte in cui avrebbe voluto riavvolgere il nastro e salvare qualcuno, insomma qualcosa che l'ha veramente segnato nel suo percorso? Beh, insomma, sono tanti gli avvenimenti che mi hanno veramente creato, una lacerazione dentro di me, una lacerazione psicologica, emotiva, sentimentale, perché i primi anni, soprattutto della mia professione, di cancro si moriva, e quindi essendo una malattia mortale, o spesso mortale, diciamo, le persone che scoprivano un nodulo se ne guardavano bene dallo andare a riferire. Tanto vale, diceva, visto che devo morire, tiro avanti il più possibile senza far sapere niente a nessuno. E quindi era un circolo vizioso che poi forse non abbiamo interrotto. Allora, in questa atmosfera, lei può immaginare quanti episodi tragici ho dovuto vivere, madri con bambini piccoli. Io mi ricordo una madre che aveva un tumore, che aveva un bambino disabile, ed erano solo loro due, il marito se n'era andato, e la madre viveva solo per il bambino. Il bambino disabile, in difficoltà di crescita, era proprio un appendice della madre, senza la madre non poteva vivere, e lei aveva un tumore, infatti a un certo punto se ne andò, e questo bambino, io mi ricordo, piansi tutte le mie lacrime, molti anni fa. Questo bambino rimase solo, fu mandato in un orfanotrofio e dopo poco morì anche lui, perché non poteva vivere senza madre. Ma questo è un piccolo episodio, ma sono decine, centinaia. Io dentro di me ho una sofferenza, nel mio profondo, una sofferenza che non riesco a cancellare, è troppo forte. E da qui che è nata e maturata poi quella frase che ha fatto tanto scalpore sull'esistenza di Dio? Beh, questa l'avevo in fondo maturata già un po' durante la guerra. La guerra, il nazismo, la strage di Auschwitz, ma non è una cosa solo mia. Mi ricordo che Ratzinger, arrivando a Auschwitz, rimase così impressionato che disse, forse spontaneamente o forse senza controllarsi, disse: ma dov'era Dio ad Auschwitz? Cioè, com'è possibile che un Dio buono, per definizione, perché il Dio è definito come un'entità buona, caritatevole, misericordiosa, eccetera, abbia permesso tutto questo? O quindi è buono ma non ha poteri per impedirlo, il male, o è un Dio invece, diciamo, un Dio severo che punisce gli uomini anche su larga scala per chissà quali ragioni imperscrutabili. Ma tutto questo secondo me non regge. Tenga conto che noi nel mondo della scienza viviamo nel dubbio sistematico, noi ci alimentiamo di dubbio, il dubbio è quello che ci fa andare avanti, se non avessimo i dubbi saremmo fermi. E invece, ecco, quando raggiungiamo un obiettivo, è una scoperta, quello la mettiamo subito in dubbio per partire per scoprirne una successiva e così via. E questo è il progresso della scienza e dell'umanità, e quindi anche in questo campo della ricerca di Dio, devo dire, io non sono rimasto, benché venga da una famiglia molto religiosa, non sono rimasto convinto, anzi alla fine ho perso la fiducia nell'esistenza divina. Un'ultima domanda e poi la lascio andare, è relativa al suo impegno nei confronti dell'eutanasia, che venga appunto accolto questo disegno di legge che ne possa prevedere l'utilizzo da parte di chi la richiede. Ecco, perché questa scelta? Ah, io mi vorrei dire perché no, qual è la ragione di opporsi? Se una persona matura, consapevole, cosciente, sta vivendo una fase terminale della vita, perché questa è solo la condizione, terminale della vita, cioè ha poco da vivere e ha dolori violenti, sofferenze, emarginazione, solitudine, disperazione, perché non deve poter chiedere di eliminare questa sofferenza, concludere la vita in maniera dignitosa e non dovere ricorrere disperatamente a buttarsi giù dalla finestra, poter morire serenamente nel suo letto con una iniezione che gli dia un sonno eterno. Siccome morire è inevitabile, anzi è necessario morire per ragioni biologiche, perché se nessuno morisse sarebbe una catastrofe. Invece morendo diamo spazio a chi viene dopo di noi. Quindi è il concetto della morte che va cambiato. Ci vuole un'accettazione della morte completa, serena, e allora è facile anche accettare quello che io chiamo l'autodeterminazione, cioè il diritto di ciascuno di scegliere quando potessene andare. Naturalmente con dei limiti, perché non se no l'eutanasia può diventare anche un pericolo, se dietro l'immagine eutanasica si può celare anche qualche omicidio, ma questo non deve avvenire. Ovviamente occorre una legge molto severa e le condizioni devono essere molto precise. Cosa che tra l'altro già avviene nei paesi in cui insomma può essere applicata, non mi sembra che ci siano stati dei picchi di richieste, insomma tutto resta nella normalità di una cosa così eccezionale. L'Olanda, il Belgio, esatto. Lussemburgo e altre che stanno aprendosi a questa sono felicissime di avere questa legge, perché è una scelta individuale, nessuno ti obbliga a chiedere l'eutanasia, ma se tu consapevolmente vuoi evitare il dolore violento perché tanto è la morte vicina, anticipare la morte per togliere il dolore può essere una richiesta, diciamo, ragionevole, che deve essere soddisfatta. Siamo un paese civile dove il volere di ciascuno va considerato. Questa volta ci dobbiamo invece proprio fermare, perché la trasmissione è terminata. L'appuntamento è per domenica prossima. Ovviamente, se volete stare in contatto con noi, potete venire a dialogare sulla nostra pagina Facebook Radio 24 la prima volta. Invece, se avete storie, commenti, critiche, potete scrivere all'indirizzo la prima volta radio24.it. È sempre un piacere chiacchierare con voi. Buona giornata, grazie per l'ascolto, a domenica prossima, sempre alle 13.30, sempre qui su Radio 24. Ciao a tutti, da Cristina Carpinelli.